Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti anche oggi insieme sino alle 11 e come ogni giorno incontreremo tanti esperti che si mettono a disposizione per rispondere alle nostre domande, per fare chiarezza, per darci indicazioni e consigli che ci possono aiutare ad affrontare e superare questo periodo così complesso. E le nostre giornate sono cambiate, così come il nostro rapporto con il tempo, ne abbiamo parlato proprio ieri, ma anche con le persone che amiamo. C'è chi soffre la lontananza e chi anche l'ha esagerata vicinanza che la convivenza di questi tempi comporti. In ogni modo, amiche e amici cari, intanto vi ringrazio per scegliere ogni giorno Radio 24 per stare con noi. Anche oggi noi ce la possiamo fare. Siamo parte di una grande squadra e grazie all'impegno di tutti, al senso di responsabilità di ciascuno di noi, nessuno escluso, supereremo anche questa sfida. Vi rimando sempre alla pagina di Obiettivo Salute, dove trovate tanti contributi degli esperti che intervengono in trasmissione, le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, gli esercizi di Viviana Ghizzardi per gli over 60, le indicazioni di Alberto Pellai. Giorno dopo giorno aggiungiamo naturalmente degli altri contributi, ogni giorno la foto di Luigi Sutera che accompagnata dai suoi versi. Mi piace paragonarla a una sorta di finestra che accompagna il nostro sguardo lontano, quindi condividiamola. 349-238-6666 invece per condividere le nostre delle vostre domande con noi, e potete mandare messaggi, WhatsApp, e vi ringrazio anche per mandarci, perché ogni giorno riceviamo tante mail a obiettivosalute@radio24. Io vi ringrazio perché queste sono pagine di diario, racconti di questa straordinaria quotidianità, pensieri, poesie, sogni. Voglio dirvi grazie perché sono davvero onorata che le condividiate con me. Bene, il primo appuntamento di oggi è dedicato a chi è iperteso. Ho postato il video prima della diretta e invitando appunto tutte le persone che soffrono di ipertensione e stanno assumendo una terapia di restare con noi. Un'occasione per fare chiarezza, ricevere indicazioni, conoscere anche il punto di vista delle società scientifiche, in modo particolare riguardo a una presunta relazione tra ipertensione e Covid-19, nonché tra l'assunzione della terapia antipertensiva con ACE inibitori e sartane e il rischio di infezione da coronavirus. Ma andiamo per ordine. Intanto c'è il professor Claudio Borghi, che è direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e coordinatore scientifico della Società Italiana di Ipertensione, che è in linea con noi, e questo già mi piace. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, è un piacere sentirvi. Professore, allora, l'ipertensione è sempre in primo piano, anche nelle situazioni impensabili. Che succede? Ci aiuti a capire? Partiamo dalla domanda. È vero che essere ipertesi facilita il contagio e le eventuali complicanze del Covid? No, nella maniera più assoluta. Non esiste nessuna evidenza di questo genere. Questo, diciamo, suggerimento nasce fondamentalmente dal fatto che si è osservato che nella popolazione di pazienti affetti da Covid ed in quella che va incontro a complicanze c'è una larga percentuale di pazienti ipertesi, ma questo è dovuto esclusivamente alle caratteristiche della popolazione, che è costituita prevalentemente da pazienti di età anziana e condizione nella quale la prevalenza di ipertensione è naturalmente elevata. Quindi se io faccio uno spaccato della popolazione sulla quale avviene qualcosa, in questo caso l'infezione da coronavirus, troverò una grande percentuale di pazienti ipertesi, ma questo non vuole assolutamente dire che i pazienti ipertesi siano soggetti alla malattia. Se si guarda la popolazione non infetta, ha esattamente la stessa percentuale di pazienti ipertesi. Quindi è una visione un po' miope e distorta della realtà dei fatti. Professor Borghi, veniamo invece alla relazione tra terapia antipertensiva e Covid, gli ACE inibitori e i sartani che vengono usati per il controllo della pressione. Che cosa hanno a che vedere con il contagio e anche il decorso dell'infezione da Covid? Sì, anche in questo caso si è creato un grande allarmismo che è dovuto sostanzialmente al fatto che il punto di attacco del virus responsabile ovviamente di questa condizione è un enzima che si chiama ACE2, che è come assonanza del tutto simile all'ACE, quindi all'enzima di conversione, che è uno dei bersagli del trattamento con ACE inibitori. Questo ACE2 è un sistema parallelo rispetto a quello che noi utilizziamo come bersaglio per la terapia antipertensiva, che lo coadiuva in determinate condizioni, ma che non ha necessariamente un ruolo così rilevante e soprattutto non è modulabile nell'uomo dai farmaci antipertensivi, in particolare né dagli ACE inibitori né dai sartani. Qualcuno aveva presunto che una possibilità dimostrata vagamente negli animali di causare un aumento della disponibilità di ACE2 attraverso l'impiego di questi farmaci potesse rendere i soggetti in generale più suscettibili alle infezioni da Covid-2, ma questo non avviene, nessuno ha mai dimostrato che avvenga nell'uomo e soprattutto non avviene in queste condizioni, per cui in pratica oggi ci sono almeno 10-12 documenti, l'ultimo rilasciato questa notte da parte di tutte le società scientifiche, che negano che questa correlazione esista e suggeriscono invece di continuare con la solita strategia di trattamento con farmaci che inibiscono il sistema renina-angiotensina-aldosterone. La ringrazio perché c'è stata molta apprensione in questi giorni. Moltissima, molto di più di quella che si potrebbe presumere, soltanto fondamentalmente per un'assonanza rispetto alla definizione, alla nomenclatura di una proteina, ma nel nostro organismo ce ne sono moltissime di proteine che si somigliano e che appartengono alla stessa famiglia, ma che fanno cose completamente diverse e non necessariamente sono collegate nel loro funzionamento l'una con l'altra. Quindi società scientifiche e anche AIFA nei giorni scorsi si sono espresse a riguardo. E, professore, al paziente iperteso che sta assumendo una terapia, qual è il messaggio che deve arrivare? Il messaggio è continuare esattamente con la terapia che sta assumendo. Nessuna società scientifica, AIFA inclusa, ha concluso con una parola di prudenza, tutte concludono esattamente con le stesse due righe che dicono il consiglio di continuare esattamente con la terapia antipertensiva con ACE inibitori e sartani, esattamente come si stava facendo ogni volta che esiste una indicazione, quindi non c'è assolutamente nulla da fare se non andare avanti, tenendo conto che forse se mettiamo insieme il numero di evidenze ampiamente sperimentali che possono sostenere un effetto sfavorevole e il numero di evidenze molto più vicine all'uomo che sostengono invece un potenziale effetto favorevole di ACE inibitori e sartani, le seconde sono enormemente soverchianti in termini di numeri rispetto alle prime, quindi se io dovessi scommettere su qualche cosa scommetterei sul fatto che ACE inibitori e sartani possano avere un effetto favorevole o protettivo anche nei pazienti che sviluppano l'infezione piuttosto che un effetto nocivo. Professore, grazie, è stato davvero chiaro, ma voglio farle ancora una domanda, perché insomma la nostra vita è cambiata, anche le nostre abitudini, i nostri pensieri, soffriamo la solitudine, facciamo i conti anche con ansia, preoccupazioni, tutto questo può impattare anche sui valori della nostra pressione. Certo. Allora, che cosa possiamo fare? Il titolino di questo intervento potrebbe essere la nostra pressione ai tempi del coronavirus. Professore, certo. Attenzioni, precauzioni, consigli nella vita di tutti i giorni. Le precauzioni sono sostanzialmente le stesse. Una cosa importante è naturalmente non farsi prendere dallo sconforto ed immaginare ovviamente che questa pandemia rappresenti una condizione insormontabile, per cui finiamo magari per trascurare le nostre terapie di ogni giorno. Certamente certo. È un problema serio, ma è una battaglia che faticosamente stiamo vincendo e vinceremo senz'altro. Nel frattempo dobbiamo metterci in condizione di farci trovare il più forte possibile. Il più forte possibile vuol dire assumere tutti quei farmaci che tolgano di mezzo condizioni che ci possono indebolire. E tra queste naturalmente un aumento sconsiderato della pressione, o un aumento dei livelli di colesterolo, una modificazione in senso errato della glicemia possono invece crearci qualche problema. Quindi la terapia antipertensiva deve essere assunta regolarmente, le nostre abitudini di vita devono essere mantenute assolutamente inalterata, la possibilità, diciamo il limite che oggi noi abbiamo nell'approvvigionamento di cibo potrebbe essere visto come un'opportunità per fare quella dieta che noi sempre suggeriamo ai nostri pazienti e che non viene mai applicata. A questo punto il fatto che sia più difficile avere accesso al cibo dovrebbe spingerci a privilegiare cibi che abbiano caratteristiche sane e che fondamentalmente si accodino o si uniformino a quei suggerimenti. Professor Borghi, la segnalo anche a lei, le ricette del nostro medicuoco quasi cuoco, del dottor Arzegovesi, vanno proprio in quella direzione. L'abbiamo letto nel pensiero. Professor Borghi, grazie. Noi meno opportunità, quelle opportunità ce le dobbiamo spendere bene. Allora, Alessandro mi manda un sms, può chiedere agli esperti se medicine antipertensione possono avere interazione con medicine antivirali in uso per cura del Covid. Professor Borghi, al volo? Direi di no, perché gli antivirali che si utilizzano sono antivirali codificanti, che alcuni dei quali hanno anche una lunga esperienza su altre applicazioni e non interferiscono in maniera significativa con gli antipertensivi. Bene, grazie professor Borghi, ne abbiamo già parlato, torniamo a farlo oggi perché a Obiettivo Salute con voi vogliamo occuparci anche di tutti coloro che nell'emergenza stanno vivendo una situazione di particolare fragilità. Penso ad esempio a chi soffre di una malattia cronica. Bene, in linea con noi è tornato a trovarci il professor Giancarlo Comi, che è direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale di San Raffaele. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Professore, grazie per essere con noi. So che state facendo una valutazione epidemiologica sulla popolazione con sclerosi multipla, una malattia neurologica che sappiamo colpisce i giovani adulti. Che cosa state evidenziando, professor Comi? Beh, innanzitutto questa è un'iniziativa che è stata promossa congiuntamente dalla Società Italiana di Neurologia e dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, che è l'associazione dei malati nella sua parte di organizzazione di ricerca, e l'obiettivo è quello di avere una visione un pochino più precisa di come la malattia, intendo il Covid, impatta su chi, sulle persone che sono colpite da sclerosi multipla. Tra l'altro questa iniziativa italiana, che è stata un po' un elemento promotore in tutto il mondo di un'iniziativa simile proprio ieri sera, a tarda serata, abbiamo concordato con tutti i principali paesi una strategia comune di raccolta di questa informazione. Dall'altra, alcune valutazioni per il momento molto preliminari, però veramente in qualche modo sorprendenti ed illuminanti allo stesso tempo, perché da una rapida valutazione fatta nei tre centri che sono stati probabilmente più colpiti nel nostro paese dal Covid, cioè Brescia, Bergamo e San Raffaele Milano, dove hanno sede nei rispettivi ospedali tre unità per la sclerosi multipla, che sono tra quelle più agguerrite in termini di attività e anche di competenze. Bene, insomma, interrogando quello che sta succedendo attraverso questi tre punti di osservazione, un po' come se avessimo fatto un sondaggio per sapere le intenzioni di voto, abbiamo in realtà visto che la situazione era un pochino diversa da quella che i numeri finora detti ci facevano pensare, intuire. In realtà noi abbiamo scoperto che la percentuale di persone con sclerosi multipla colpite da questa infezione è pari a circa il 3%. Se noi trasferiamo questo a livello della intera popolazione lombarda, vuol dire circa 300.000 persone, che sono numeri un po' diversi dai 50 a 60 mila che circolano. Ovviamente, come tutti i sondaggi, ha qualche margine di incertezza, la classica forchetta, ma la forchetta è giusto una forchetta, non è immensa, quindi vuol dire che in realtà la dimensione del problema è diversa. Questo credo che sia la prima osservazione nel nostro paese, che su un campione di circa 5.000 pazienti, questi sono quelli a cui fanno riferimento questi tre centri, ci dà, e questo credo sia un'informazione utile anche per tutti. Ecco, professor Comi, dobbiamo fermarci per dare la linea al traffico, lei resta con noi, ha un altro messaggio da dare ai nostri ascoltatori? Dopo queste considerazioni che derivano appunto dai vostri studi dalle valutazioni epidemiologiche? Volentieri. Allora, il professor Comi si ferma. Subito dopo le informazioni sul traffico, oggi parliamo anche di meditazione. Restate con noi. Obiettivo Salute. Veloci veloci siamo tornati con il professor Comi per una riflessione a voce alta, professore. Sì, perché questi 150 persone con sclerosi multipla affette anche da questa infezione sono tutte persone che hanno avuto manifestazioni cliniche minori. Nella stragrande maggioranza di casi solo circa il 10% di questi ha avuto la polmonite o anche quasi più complessi. Quindi questo ci dà un altro messaggio fondamentale, che c'è una sottostima terribile di questa condizione, perché solo il 15% di questi 150 avevano fatto un tampone. Quindi, come si dice ormai da più parti, ma noi l'abbiamo verificato, il sommerso è enorme, e se noi non andiamo ad individuare questo sommerso diventa anche difficile riuscire a frenare il contagio. E questo è un messaggio molto importante, perché ci spiega anche certe apparenti discrepanze dei valori di mortalità rispetto a tutto il mondo. Certo. In realtà, e soprattutto, professor Comi, il messaggio è uno e resta chiaro: restiamo a casa, è quello che al momento possiamo fare. L'altro messaggio, professore, che grazie per essere seguono. Ecco, grazie professore per essere stato con noi e per averci dato queste anticipazioni. Ci sentiamo presto. Grazie. Io resto a casa e medito. Uso questo hashtag per introdurre il nostro spazio quotidiano dedicato al benessere della mente, che vogliamo imparare a coltivare e nutrire. Oggi ci aiuta Daniel Lumera, esperto nella scienza del benessere e della qualità della vita e riferimento internazionale nella pratica della meditazione. Daniel, che bello essere con te oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Nicole. Daniel, io resto a casa e medito, ma prima di chiederti perché la meditazione può essere utile, credo sia importante intendersi sul significato di questa parola. Allora, la meditazione è uno stato di profonda consapevolezza, lucidità, centratura, presenza e silenzio mentale che ha delle importantissimi effetti collaterali sulla salute della mente, del corpo e sulla qualità della nostra vita. Però c'è molta disinformazione e molta improvvisazione a riguardo, perché non si tratta di semplicemente di respirare, di visualizzare, di pregare o di camminare o di pensare, è proprio uno stato di intensa consapevolezza. Torno allora alla domanda: perché meditare può essere utile? Ma in questi giorni innanzitutto c'è stato un comunicato molto importante dell'Organizzazione Mondiale della Salute, che ha indicato quali sono le linee guida per poter vivere bene e superare questo periodo di quarantena, dove si risvegliano tantissime problematiche legate anche agli istinti primari, e dice chiaramente che oltre a una corretta alimentazione e al corretto movimento fisico, e indica come farlo in spazi limitati, indica la meditazione come una di quelle abitudini importantissime da introdurre proprio per poter vivere e sopravvivere a questi periodi difficilissimi. Quindi si parla dell'organismo più importante, che dà le linee guida sulla sanità e sulla qualità della vita e sul benessere e salute. Tra l'altro ci sono anche degli studi sugli effetti della meditazione sulla salute psicofisica, molto interessanti, Daniel. Allora, la meditazione è stata non solo sdoganata, scusate questo termine, ma ci sono dei solidissimi studi scientifici che mostrano che l'impatto della pratica meditativa ha diversi livelli di azione, innanzitutto sul corpo fisico, sulla nostra biologia, perché a partire anche dagli studi di Elizabeth Blackburn, stiamo parlando del premio Nobel alla medicina del 2009, che poi nel 2011 con l'endorsement del Dalai Lama sviluppa una linea di ricerca straordinaria, e ha un impatto sul sistema immunitario, su tutti i processi di disinfiammazione, ma anche sul dolore, le malattie croniche, e chiaramente anche un impatto sulla qualità del sonno. Questo solo per quello che riguarda alcuni studi del corpo, riguardante il benessere del corpo fisico. Se poi vogliamo citare solo l'impatto che ha ad esempio sul tono dell'umore, sull'ansia, sulla depressione, sulla tristezza, no? Quindi sulla salute mentale ed emozionale. E poi ci sono bellissime pubblicazioni degli psicologi americani, dell'associazione di psicopotentissima associazione degli psicologi americani, che dimostra come l'isolamento sociale e la sensazione di solitudine possono essere tranquillamente superate attraverso la pratica costante, diaria, della meditazione. Tra l'altro, Daniel, io sono molto contenta di quello che tu ci racconti, perché ho capito che non serve diventare Daniel Lumera, per avere questi vantaggi, bastano anche pochi minuti al giorno. Sì, basta basterebbero pochi minuti, 10-12 minuti al giorno. Molti studi di scienziati, di luminari mondiali, hanno dimostrato come è sufficiente una decina di minuti al giorno, 12 minuti al giorno, di questa sana abitudine che con pochi elementi cambia la chimica del nostro cervello, iniziando. Gli elementi sono semplicissimi, basta, è importantissimo portare attenzione al momento presente, trasformare il proprio respiro in un atto consapevole che ci rilassa, diventare profondamente consapevoli di se stessi, presenti nel miracolo della vita, che non è qualcosa di scontato, e poi entrare in un silenzio mentale che è profondamente rigenerante e ci permette poi un ascolto profondo con il ritmo della vita, ritmo che abbiamo perso, e infatti la situazione attuale nella quale ci troviamo, dal mio punto di vista, è proprio un ritornare a un ascolto della vita e a ritmi più naturali. Allora, attenti bene, perché da oggi trovate sulla nostra pagina dei video che Daniel ci mette a disposizione. È così, Daniel? Sì, abbiamo deciso di condividere come imparare questa pratica, questa abitudine così importante, attraverso dei video che spiegano cos'è la meditazione, come introdurla come sana abitudine quotidiana e poi come trasformarla in uno stile di vita di salute e benessere. E poi vi segnalo 12 minuti per te, 12 minuti insieme, un appuntamento quotidiano online per meditare con Daniel Lumera. Basta iscriversi a La Cura dell'Essere. Daniel, dillo tu, che qua io con tutte quelle S magari non lo dico bene, dillo tu. Sì, è un'iniziativa gratuita, aperta a tutti, per sostenere chiunque abbia bisogno di meditare, e il sito è lacuradellessere.it, si registra una persona, l'iniziativa è sostenuta anche dal Museo Maxi e può imparare, puoi meditare con me alle 19 ogni giorno e alle 9 del mattino per 12 minuti insieme, proprio per riequilibrarsi e entrare in uno stato differente. Quindi cambio l'hashtag, io resto a casa e medito e aggiungo con Daniel Lumera. Grazie Daniel per essere stato con noi. Grazie. Beh, meditiamo, ma mettiamo anche le gambe sotto il tavolo. Buongiorno al dottor Erzegovesi, il nostro medicuoco quasi cuoco. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno, che cosa ci prepara oggi? E oggi continuiamo a esplorare la dispensa. E abbiamo un'età per cui tutti e due ci ricordiamo la pubblicità di Calimero che diceva che in giustizia però sono piccolo e nero. Oggi parliamo di quelle cose piccole e nere che spesso abbiamo in dispensa, ci fanno un po' impressione, che sono i legumi neri, e in realtà non c'è niente di più prezioso in questo momento dei legumi neri, quindi parliamo di fagioli neri, ceci neri e lenticchie nere. Il nostro cervello, proprio il nostro sistema sensoriale, è molto dubbioso quando vede un alimento nero, perché lo collega a qualcosa di poco commestibile. In realtà l'alimento nero significa tranne per il cioccolato, dottor Erzegovesi. Però il cioccolato è marrone scuro, che richiama veramente qualcosa di diverso. Il blu nero, che è il colore delle antocianine, invece richiama più qualcosa che non è immediatamente commestibile. In realtà le antocianine sono un meraviglioso antiossidante, ma soprattutto la letteratura scientifica più recente le collega a un effetto specifico sull'espressione genica, e quindi vuol dire cambiare il modo di funzionare dei nostri geni in termini antinfiammatori, antiossidanti e anche antinvecchiamento. Allora tuffiamoci in dispensa ad andare a cercare questo tesoro. Naturalmente la ricetta del dottor Erzegovesi la trovate sulla pagina di Obiettivo Salute, come ogni giorno. Grazie dottor Erzegovesi per essere stato con noi e grazie sempre per questa collaborazione quotidiana. Grazie. Io ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo domani, sempre alle 10:30. Buona giornata dalla vostra Nico.